Balotelli, per me, ovviamente questa è la mia opinione, io lo vedo come un genio pazzo, cioè di un genio si piglia il bene e il male, si pigliano le cose buone, e ora uso un termine un po' inolorito, si pigliano anche le cazzate, quindi... Beh, senza con la C aspirata, come la dite voi in fiorentino, si può dire, dai, secondo me è più elegante. Le azzate, va bene. Sa qual è il problema però, Lorenzo? Che di questo soggetto, che appunto è capace in una frazione di secondo di passare dall'una all'altra cosa, non pratica uno sport individuale, pratica uno sport di squadra, anzi lo sport di squadra per eccellenza. E credo che questo sia un pochino il problema, perché se Balotelli facesse il tennista, lo sciatore, sceglierei la disciplina, insomma, alla seconda, alla terza, alla quarta volta che ne combina una, insomma, se la potrebbe prendere soltanto con se stesso, e in ogni caso non dovrebbe rispondere a nessuno delle sue alzate di ingegno. Così invece delle sue sciocchezze o dei suoi crolli nervosi, o insomma, il campionario è vasto, ci vanno in mezzo tutti, la pagano tutti, e così come tutti invece godono, no? Tutti hanno un risultato dalle sue prodezze, come nel caso di ieri sera. È difficile, secondo me è molto difficile.